sottolineando che la mafia italiana risulterebbe essere la sesta al mondo, ma è quella più conosciuta anche per i film e le fiction che ne hanno parlato, come la serie della Piovra e in generale la letteratura, ovvero Gomorra e tutto il resto. Oggi è cambiata la mentalità. Oggi chiunque in Italia sa chi sono i casalesi, sanno che è un'organizzazione criminale che va combattuta. C'è una volontà da parte dei commercianti e degli imprenditori di non sottostare più a certi ricatti e a un certo modo di fare economia. Sono in aumento notevolissimo le denunce per estorsione, cosa che fino a un paio di anni fa era un fatto assolutamente impensabile e inimmaginabile. C'è un'opinione pubblica che è sempre più sensibile su questo problema, e quindi le forze dell'ordine, i magistrati, chiunque voglia fare qualcosa non si sente più solo nel combattere i casalesi, si sente invece più forte, anche in virtù di una stampa e di pubblicazioni, film ed altro che hanno evidenziato questo stato di cose e hanno fatto nascere una coscienza civica sicuramente diversa. Italia in controluce. È partito in questi giorni a Genova il progetto Angeli alle fermate. Chissà se potrà diventare un progetto pilota anche in altre città. L'ispirazione, dicono gli organizzatori, è nata da un film di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino, dove le figure protettive guardano dall'alto. Gli angeli, appunto, proteggono i cittadini. E allora sentiamo da Andrea Ferro di che cosa si tratta. Alla sera, angeli in carne ed ossa librano le fermate, sbattono le ali tra chi aspetta il bus ingabbiato nella paura di un brutto incontro, nell'attesa che si prolunga rendendo ancora tutto più incerto. Questi angeli parlano, raccontano favole, recitano, mimano. Nella giungla urbana dove l'insicurezza reale è percepita, deforma i sentimenti, l'intrattenimento diventa così un deterrente, trasmette fiducia, ammicca. Queste pattuglie di angeli con ali di cartone da tempo si materializzano a Bologna e da qualche settimana pure a Genova, d'intesa con l'amministrazione comunale che ha finanziato i loro voli. Li hanno chiamati angeli alle fermate, sono ragazzi e ragazze dell'associazione La Stanza. Francesca Traverso, una delle organizzatrici, racconta l'idea. La persona che l'ha pensata aveva avuto un po' questa immagine legata al cielo sopra Berlino, diciamo, un po' ispirato al film, di questa figura, di queste presenze nella città che possono accompagnare le persone e ascoltarle. Quindi nasce un po' da questa ispirazione più poetica. Significa dare la possibilità delle persone, tendenzialmente attori, animatori sociali, diciamo, di stare fisicamente in dei posti che sono localizzati di solito come delle fermate mirate, diciamo, della città, in due, con queste ali, e stare attenti, in ascolto, diciamo, delle persone disponibili a fare dei piccoli accompagnamenti e creare un po' di relazione tra le persone che aspettano gli autobus alle fermate. Sicurezza, quindi, un'emergenza galoppante tra i nuclei urbani, sui quali tra cronaca e leggenda incombono predoni di ogni razza, molestatori, rissaioli, sbandati. Spesso la sensazione di una minaccia incombente isola, deprime e costruisce steccati, conduce a forme di incomunicabilità. Contemporaneamente si moltiplicano le forme di difesa, tecnologica e manuale, dalle telecamere alle ronde. Allora, diciamo che i finanziamenti, diciamo, che supportano questa esperienza sono legati sì all'assessorato, diciamo, della sicurezza. Il contenitore interno poi che vorrebbe essere sviluppato nel tempo è questo, anche proprio di capire veramente il cittadino magari in qualche modo cosa percepisce lui come insicurezza sociale. Sarà interessante, sarà noi su Genova, che è sicuramente una città diversa da Bologna, vorremmo proprio documentare anche tramite le storie e racconti delle persone, anche capire appunto in questo senso sicuramente sì, è un'esperienza civica che vuole nascere proprio anche come in alternativa a delle dimensioni magari più invasive da parte di interventi di sicurezza, come possono essere le telecamere, eccetera, che sono tutte forme che poi possono anche, bisogna capire poi alla fine che cosa creano, no? Anche rispetto invece a questo fatto della dimensione civica, dell'ascolto, comunque di mettersi in relazione, no? Forse tante cose nascono proprio dalla mancanza di relazione e comunicazione, no? Ma come reagiscono i passeggeri in attesa del bus di fronte all'avvento di ragazzi con ali di cartone sorridenti e curiosi? Accade magari che in una fermata dove ci sono tante, magari anche 5 o 6 persone, l'attore che fa l'angelo in qualche modo incomincia a interagire con una persona, racconta lui magari una propria storia, una persona un po' più lontana si può avvicinare, racconta un aneddoto, ad esempio un'esperienza bella di Bologna, quello che raccolgono ad esempio le ricette della cucina, e quindi anche tramite elementi molto semplici ognuno magari può dire la sua, e persone che prima magari non si guardavano neanche in faccia, poi alla fine può nascere un discorso. Sono create delle bellissime relazioni. situazioni. I nostri ragazzi che si occupano sulla strada di fare gli angeli stanno creando di questi bollettini di volo dove in qualche modo raccolgono le esperienze, tra di noi le stiamo documentando, rispondono molto e contribuiscono anche molto così a un piano anche animativo, magari sono persone che si mettono anche molto in gioco così, quindi sì, come esperienza stanno ritornando delle belle esperienze, ecco, non di chiusura, ecco. È tutto per Italia in Controluce, anche per oggi un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete commentare i servizi che avete sentito oppure inviateci le vostre storie controluce@radio24.it. Ci sentiamo domani alle 6.30. Buona giornata.